ora in onda Ciao Edi Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marzi, Enzino e alla parte tecnica Simone. One, one. Buonasera, ben ritrovati a tutti voi simpatici ascoltatori. Siete sintonizzati su Radio F e state ascoltando Piazza Alta. Piu, piu, piu, piu. Dal 1976. Buonasera a tutti, che bello vedere. Simpatici amici, queste benvenuti facce a questa fantasmagorica puntata di Piazza Alta. E si era detto che stavi zitto nel primo intervento. Okay. Pensa a te da qui alla fine. Siamo alla 19ª puntata e come sempre partiamo con il primo brano. Today is a Monday. Sometimes I'm happy even when the sky is cloudy and gray. And I am ready for a shower in the rain. We feel better when we're on vacation. Sometimes I eat the food, it doesn't taste as it should be. Maybe because my mind is testing everything so sweet. Sometimes the people that I meet are not so boring but freak. And it's a pleasure speaking about the weather and the news. We feel better when we're on vacation. We feel better when we're on vacation. Oh, I love being on vacation. Love being on vacation. Oh, I love being on vacation. Love being on vacation. Abbiamo iniziato con una vera chicca in questa scaletta di questa 19ª puntata di Piazza Alta, perché pensate, Enzino e Marzi, sì, sì, Simone pensiamo, è andato a scovare un brano in anteprima, perché questo Do You, che è il titolo del brano dei We Love Surf, che è una band livornese, è proprio in anteprima. Il disco sta uscendo in questi giorni e Simone l'ha trovato. Ma guarda, cara Sara, io non ho dubbi che Simone, nella preparazione della trasmissione, nella playlist di Piazza Alta, non dia il meglio di sé, per proprio cercare di anticipare, evitare quelli che sono i brani migliori da poter inserire. Di, quindi, e devo dire che questo suo sforzo per ora dà però, i suoi frutti. Però questa dà i suoi frutti. Insomma, il gruppo gli ha mandato il disco, ce l'abbiamo in anteprima, lo promuoviamo, quindi li salutiamo. I ragazzi, io l'ho fischiettato, a me è piaciuto. Sì, sì, io l'ho. Sono di Livorno, hai detto? Di Livorno. Di Livorno, boia. Ciao ragazzi. Ciao bimbi. Ciao, e allora salutiamo Andrea, Flavio e Luca. Loro sono i We Love Surf. Ma anche noi Love Surf. Ma no, così, alla grande. Ma Win Surf e Surf. Ma Surf, okay. Basta il Surf. Allora, perché siamo qui stasera? Ce lo domandiamo un po' tutti, ma un'ora d'aria non si nega a nessuno. Come ci stanno ascoltando? Come ci stanno ascoltando? Io spero che ci stiano ascoltando sdraiati. Guarda, il sogno mio è che ci stiano ascoltando mentre fanno l'amore. Sarebbe la cosa più bella di questo mondo. È una banalità questa, guarda. Io non lo farei mai. Io nemmeno. Ecco, io non lo concepisco. Ma io non lo farei mai l'amore proprio. In ogni caso, dovesse succedere, se ci anche invitate, in qualche maniera potremmo fare. Siamo tre. Quattro porcelli degenerati subito. Sara, ti prego, riprendi in mano la situazione. Torniamo a Piazza noi Alta, allora. Ad alto contenuto erotico, dai. A posto, bene. Allora, diciamo le frequenze FM. Vai, Marzi, così. Le frequenze, appunto. Diteci le vostre frequenze. No, per l'argomento di cui sono. Basta. Allora, le dico io: FM, 101.2. In streaming www.radiof.it, che voglio dire, siamo alla 19ª puntata, non ha mai detto punto, cioè www.radiof. Guarda, vabbè, grammatica e geografia erano due materie che www proprio che lo frega. Ma oppure scaricando le nostre app, le nostre app, nostra app, sì, su... certo, quelle per Apple e Android, che Android per Android in Valdichiana si dice Android. E come si chiama l'app? Prova, dai. Radio F. Bravissimo. Perfetto. Bravissimo. E invece Piazza Alta è la nostra pagina Facebook. Sì, però voi volete confondermi con tutta questa tecnologia. Ma no, lo sapete da quando? Nell'aereo, nell'etere, in ogni dove. L'aere. Le parole, la musica di Radio F. Da quando? Da quando? Dal 1976. E non è finito. Okay. Siamo partiti alla grande. Alla grande. E allora vogliamo intanto introdurre l'argomento di stasera, perché stasera, insomma, l'argomento è gustoso. Sì, sì. Gustoso, perché ci avviciniamo alla Pasqua, manca più o meno una settimana, e c'è un dolce tipico di Pasqua che non è l'uovo, che è l'uovo di cioccolato, questo è vero. Fammi però... un cenno, Enzo, quando posso parlare. Puoi parlare adesso. Vai. C'è da dire qualcosa di interessante? No, io avrei molto da dire, perché vorrei preparare i nostri radioascoltatori a una serata fiammeggiante, a una puntata straordinaria, perché secondo me stasera verranno fuori delle cose inenarrabili che lasceranno, noi narreremo invece. Esatto, ma che lasceranno il segno anche nei giorni a venire. Ecco, ora Sara, dicelo te. Diciamo di che cosa parliamo. Di cose più pratiche e concrete. Stasera parleremo del ciambellino. Ah, buono il ciambellino. Buono. Io, guarda. E con chi ne parleremo? Ma con il cultore del ciambellino, con uno dei massimi esponenti dell'arte ciambellinaria, detto anche il gran ciambellano, che ha i suoi natali proprio a Foiano. Ma sì. Pensate, guarda caso. A Pasqua ai natali, per dire. No? Una confusione totale stasera. Sandro Donati. Ciao Sandro. Sì, buonasera. Al secolo meglio conosciuto con l'appellativo di Sandrino. Sì, sì, sono Sandrino, grazie per l'invito, grazie per l'opportunità. Vi faccio notare che non a caso sono nato il lunedì dell'angelo. Questo lunedì dell'angelo? Cioè non lunedì questo, non di quest'anno, ma l'anno proprio... in cui sono nato era il lunedì dell'angelo. Quindi la Pasqua per me è proprio ragione di vita. Ma il tuo destino, in questo periodo, in quel periodo non si nascesse sotto a un cavolo, ma dentro l'uovo. Ah, pensavo dentro un ciambellino. Illumini vive distante da ciò che più a cuore mi sta. Fammi sentire distante, lontana anni luce da qua. Una voce femminile, lei è Meg, ex cantante dei 99 Posse, che dal 2002 ha iniziato la sua carriera solista. E di Meg abbiamo ascoltato il brano Distante, da Psycho Delice. Anche attrice famosissima, no? La Meg Ryan. Mi stavo domandando se era musica dodecafonica. Certo, non l'hai sentita? Un po' resa in chiave, certo, elettronica. Sì, sì, ci sono delle dissonanze, certo, che proprio si... E vincono. Lo xilofono, ecco, me lo trovo tutto. Sì, continua ad essere perplesso il nostro Massi. Esatto. Allora, quindi torniamo all'argomento, ragazzi, perché ora è il vostro momento. Intanto ricordiamo che in studio abbiamo un ospite, Sandro. Ciao Sandro. Sandrino, per chi si fosse sintonizzato ora, e perché lui è un esperto di ciambellino. Ma dopo quindi spiegheremo anche proprio perché è esperto, perché lo raccontiamo. Però intanto partiamo proprio da qui. Perché allora, questa domenica, quindi domenica 13 aprile, a Foiano ci sarà proprio la festa del ciambellino e del vinsanto. Ecco perché abbiamo deciso di dedicargli questa puntata. Ragazzi, allora, vogliamo intanto parlare di questo dolce, che non è solo il dolce tipico di Pasqua, ma Foiano, insomma, ha una storia. Ha una storia. È vero, cara Sara. E ti dirò che nella ricerca di queste di informazioni sulla storia del ciambellino, sul suo collocamento nel mondo, insomma, nell'esistenza dell'umano di venire, che abbiamo peccato scoperto che solo io possa guardarti mentre e parli, possa capire quello che io dico. Lo so. Abbiamo scoperto delle cose veramente interessanti. Gustose. Devi sapere, Sara, che il ciambellino è il dolce tipico di Foiano. A tal punto che se vai su Google e digiti ciambellino, veniamo immediatamente rimandati a Wikipedia. Su Wikipedia poi leggiamo queste due testuali righe. Il ciambellino è un tipico dolce povero toscano, originario di Foiano della Chiana. Udite. Un anello di pasta friabile a base di uovo e farina con diametro di circa 20 centimetri. Quindi, su questo poi Sandro, il nostro ospite, ci saprà dirci di meglio. Andremo ad approfondire. Domenica a Foiano si terrà questa festa del ciambellino e del vinsanto per le strade del centro storico. Inizierà dalle 10, terminerà intorno alle 20. E sarà un viaggio alla scoperta degli antichi mestieri. Con il mercato storico per le vie del paese. È concentrato, è concentratissimo. Un tuffo nel passato. Tampone. Tecniche e strumenti di lavoro all'interno delle suggestive botteghe medievali del centro storico del castello di Foiano. Orzù. Dove maestri dell'arte, speziali e artigiani svelano i segreti degli antichi mestieri e mostrano le fasi e gli strumenti di lavoro e della loro produzione. Caro Marzi. Tra l'altro, mentre parla, mi sembra di sentire in sottofondo la musica, tipo, sai, quella proprio del 1400, l'arpa. Sì, una sorta di musica rinascimentale. Dodecafonica. Che convergono al centro in puro stile rinascimentale. Di Vasariana, memoria. La festa avrà il suo culmine con la seconda edizione di Il Ciambellino Più. Ecco, perché a Fogliano le cose normali non, ci, non ci riescono, noi sempre un passo avanti. Solo specialità. È un concorso, cari miei ragazzi, è un concorso culinario che premia con il giglio d'oro, simbolo di Fogliano, il ciambellino che in base all'aspetto, alla ricetta, al sapore, risulterà vincitore nelle due categorie, quella amatoriale e quella per operatori professionali. E non a caso il vincitore lo scorso anno come operatore professionale è il nostro ospite Sandro Donati, a cui intanto facciamo i complimenti. Grazie, grazie. E poi ci dirà come ha fatto a vincere, cioè qual è la... Ero amico del giurato. Perfetto. Chiaramente la qualità viene sempre fuori, sì, lo diciamo da tempo. No, l'ho spuntata al ballottaggio, fortunatamente, e il giglio d'oro ad oggi è in cassaforte a Ginevra. Giustamente. Perché no, non mi posso permettere di esporlo, insomma, è troppo così prezioso. Bene, bene, ma vedi chi vi ho portato? Boh, vabbè. Allora, questa giuria, appunto, diciamo, di esperti, nel corso del pomeriggio, come lo scorso anno, assaggerà e commenterà fino all'assegnazione dei premi, che avverrà verso le 18:30. Quindi tutti i nostri radioascoltatori sono invitati assolutamente a partecipare, direi cerimonia. Il premio e la relativa festa sono ispirate, come appunto avevamo già un po' detto, alla tradizione contadina della Val di Chiana e ai riti che precedono la Pasqua. Le degustazioni mi sono perso. Di Vinsanto, zuppa inglese e dolci pasquali permetteranno al pubblico, ma di tutte le età, a Marzi, cioè anche te che c'hai una certa età, accompagnato, potrai esserci. Ma a me non fanno entrare in paese per altri motivi. Esatto. Non per consentirà l'età di assaporare, conoscere e sperimentare i segreti delle lavorazioni tradizionali della Val di Chiana e di quelle del periodo pasquale in particolare. Ma che cosa aprirà a Marzi? Che cosa aprirà? Aprirà il pomeriggio alle 15:30 il corteo storico, arricchito dall'esibizione dei musici di San Sepolcro. Mentre alle 17:30 ci sarà la lettura animata della battaglia di Scannagallo. Mentre per grandi e piccini, quindi ancora anche per te e per tutta la giornata, ci saranno calcio e altri giochi rinascimentali in piazza Mazzini. Un trionfo. Una giornata, diciamo, da dedicare veramente a Fogliano. Ma io sono stanco solo a dirlo, figurati a stare tutto sei il giorno. Sei rosso in viso. Se ti è venuto anche appetito. Perché l'appetito viene ciambellando, Per sapere chi sei, non mi basta una notte. Però chi mi dice che ogni giorno sarà sempre così? Planerai sulle pagine aperte dei miei desideri, lasciando una scia. Provo a respirare. lascia sognare a chi sogna ma non si ricorda, a chi vuole un passato presente e poi si ritrova imperfetto, a chi cerca il fuoco ma non ha la legna, a chi sente il peso delle sue paure tanto quanto la leggerezza dei suoi desideri. La voce di Giovanni Gulino, cantante frontman di Marta sui tubi, e il brano che abbiamo ascoltato è I nostri segreti, tratto dall'ultimo album della band. Tra l'altro io sono sempre stato preoccupato per questa Marta, dico, ma su sti tubi se casca vedrai che casino. Poi chi è Marta? Cioè chi è? Ah no, si sa? Noi non siamo molto, io e Marzi non siamo molto presenti sul campo musicale italiano, ma non è colpa nostra, cioè è colpa nostra anche a estero, sì, no. una per sera, diciamo, come sempre, come spesso ho detto, per me dopo Giacomo Rondinella non c'è stato più niente. Pensavo dopo Gioacchino Rossini. Sì, Gioacchino Rossi, detto Giacomo a posto. Dopo Giacomo Leopardi ti ci vedo un po', ma non ma per non divaghiamo. Entrerei però sì, perché potremmo per finirla più del signore. E allora torniamo a noi. Allora ragazzi, abbiamo presentato il programma della festa che ci sarà domenica 13 aprile a Foiano, festa del Ciambellino e del Vinsanto, quindi voi avete un po' ripercorso la storia anche del Ciambellino, ma adesso sono curiosa di sentire la voce del più grande esperto di Foiano e del Ciambellino, ovvero il nostro ospite Sandro Donati. Vogliamo approfondire a lui la parola, il microfono. Concetto del Ciambellino, il concetto. Aspetta Maci, guarda qui. Prima di iniziare a volare e andare per vie... Sandro. Parti dalla prima domanda. Sandro. Domenica. Parteciperai alla gara? Come ti senti? Andrai a difendere il titolo? Partecipo in quanto detentore, come già detto. Chiaro. Anche se sinceramente io ero un po', sarei stato un po' restio a partecipare, ma in casa hanno spronato, insomma mi hanno preso proprio letteralmente a cignate, come si dice in paese. Ma perché? Ti sei già fatto prendere un po' da... Dimmi. No, era un po' così. Perché non volevi partecipare? No, ti sei dato già manie di grandezza, hai vinto la prima edizione, almeno fino alla terza devi fare. È una cosa che va un po' contro la mia natura, la mia filosofia. E mi piace un attimino stare sempre sotto a... dietro le quinte. Sì, un po' come noi che non ci piace tanto, chiaro, apparire. Certo. Ma allora, vediamo le cose serie in questo programma, niente. Però facciamo le domande di rito, Sandro, a cui ci devi rispondere, poi dopo divagheremo. Intanto gli ingredienti del Ciambellino. Dunque, gli ingredienti attualmente del Ciambellino sono uova, zucchero, farina ovviamente, e liquori che variano dal rum a qualche rosolio, e burro o margarina o tutti e due. Perché dici attualmente? Perché la ricetta originale, quella contadina, ovviamente quando non c'erano in commercio i liquori attuali o il burro, queste cose qui, era con uova, zucchero, farina e strutto al posto del burro, e vinsanto, perché i contadini producevano quello, al posto degli attuali liquori. Ecco, questo è importante. Per me è fondamentale, Enzo, se mi consenti. Io che sono un purista, questa ricetta, diciamo, originaria, io la sostengo e la voglio promulgare, se mi consenti questo termine, perché è da lì che si parte, è la cosa più vicina che ci rimanda alla nostra cultura contadina. Io ti starei ad ascoltare veramente per ore senza capire niente, succede anche a me. No, scherzo, ci mancherebbe altro. Ma se vuoi te la ridico. No, per l'amor, ti ringrazio. E la forma, Sandro? La forma, Natta Ciambella, non ti saprei dire perché io ce l'ho trovata. Ecco, ce l'hai trovata perché... Ce l'ho trovata perché io sono nato in un panificio, praticamente, perché la mia mamma, mentre faceva il pane, praticamente, ma quasi partorito. E, tra l'altro, un aneddoto simpatico è che il mio il mio soprannome attualmente, tanto tutti lo sanno, è Spolina. Beh, perché è il mezzo chilo di pane, ma il mio vero primo soprannome, che ha durato penso 5 minuti, è comunque Ciambellino. Vedi, dal farmacista Bambi Franceschini, che appena mi vide disse: è nato Ciambellino. Beh, ma allora guarda, io chiuderei qui la trasmissione, un applauso, sì, e andiamo via. Sì, non potevamo avere ospite migliore stasera. Sì, perché te, i tuoi genitori sono appunto, hanno sempre avuto il forno. Sì, sono venuti a Foiano, hanno rilevato questo forno che era chiuso da un po' di tempo, e mio babbo faceva il fornaio da operaio, ebbe questa opportunità e venne con i miei fratelli appena nati e io in pancia praticamente. Ecco. E quindi io sono concepito in altro luogo, ma nato, diciamo dove, diciamo dove, a Rigutino. Ragazzi, concepito a Rigutino, e mi è andata di molto bene. Un saluto agli amici di Rigutino, certo. Tra l'altro, se mi consenti, giusto appunto oggi all'ora di pranzo, mio amico proprio di Rigutino, gli ho sottoposto la trasmissione, l'argomento della trasmissione di questa sera, e lui non sapeva che cosa fosse il Ciambellino. Ma questa era una mancanza della persona che frequentavi? No, te. Voglio dire che la trasmissione di stasera, secondo me, sarà il primo passo per portare il Ciambellino, il concetto del Ciambellino, la filosofia del Ciambellino al di fuori delle mura, la cultura anche del Ciambellino. Abbiamo fatto, ma già la cultura storia, a me mi si addice un po' meno. Io direi che sicuramente ci chiamerà l'Accademia della Crusca. Vediamo, con vediamo, cui faremo perché anche un Ciambellino integrale. Yeah. non ha mai canticchiato questo ritornello? Marzi. Marzi, lo so, però stasera muoveva la testa, faceva... Eccolo. Quanti ricordi? Più o meno ci siamo, dai, sì, vabbè, ci siamo. Comunque era Seven Nation Army dei White Stripes, che è il loro disco attualmente più venduto. Meraviglioso, ci credo. Cioè, è inspiegabilissimo. È da stadio, anche è da stadio. Che lavoro. Bene, facciamo dei saluti. Sì, sì. È il momento dei saluti. La nostra pagina Facebook è arrivata a 290 amici. Ormai dobbiamo arrivare a 300. Sì, dai, non ragazzi, vi dico ci fate serata, arrivare a 300. Entro la settimana dobbiamo arrivarci. Proviamo entro la serata. Proviamo almeno entro la serata. Fate come ha fatto tale Francesco, Giulio, Sara, gli amici di Codino, che non so chi siano, ma qui salutiamo. Li salutiamo lo stesso. E poi ancora le persone che ci stanno seguendo ora, alcune: Dobre Elena Luminita, chiedo scusa per la pronuncia, Laura Bindi, Chiara, Riccardo che da Milano ci segue fedelmente, Sara che salutiamo nella sigla iniziale, no Sara scusate, Edi che salutiamo nella sigla iniziale. Vabbè, sono momentacci per tutti. Marzi. E io Marzi, volevo aggiungere salutare? Volevo salutare Sara e Augusta. La serata delle Sare, che devo dire. Un saluto, sì. Sandro, devi salutare qualcuno. Io saluterei... Ma io ho un'amica che si chiama Sara. Beh, vedi perché è un genio. È fantastico. Simone, devi salutare qualcuno? No. Devi dire Sara. No, niente. Sara, salutati. Io sì, mi saluto, ciao Sara, e a posto. E con questo chiudiamo anche il momento dei saluti. Ma torniamo a Sandro. Sandro. Perché allora abbiamo iniziato a parlare di ciambellini e... Io, se mi permettete, nel tempo di questa fantastica canzone mi è venuto in mente una cosa che gradirei che il nostro ospite mi chiarisse. La forma tipica del ciambellino è fin dall'origine circolare, perché dalle nostre parti ultimamente c'è anche quella forma un po' oblunga, ovale. Oh, veniamo all'affusolato. Quindi c'è alla base della mia domanda c'è un senso. Hai strano fatto ma quasi vero. Una domanda intelligente. Quasi. Chiudiamo e salutiamo e andiamo. Dietro a richiesta di mercato, cioè i clienti. Chiaro. E il ciambellino si è decisamente trasformato, torna ad essere rotondo con il buco verso Pasqua, dalla Quaresima in poi, durante l'anno, perché il ciambellino poi ormai è un prodotto che viene fatto tutto l'anno, e è diventato compagno di colazione. Per me è essenziale partire la notte con un po' di ciambellino nel caffè, vedi. Al posto quindi mi vuoi dire, Sandro, che questa è un'idea di marketing, di packaging del una ciambellino. Questione di praticità, perché nella tazza non c'entrerebbe, altrimenti la ciambella va spezzata, sbriciola la moglie, brontola tutto ciò che quindi, tutti i drammi familiari che ne possono conseguire. O quindi facevamo il caffè latte nell'insalatiera oppure modificavamo. No, oppure è vero che ora state progettando anche una forma tipo iPad, l'iPad del ciambellino. Questa è una follia tua, però ti dico di sì. Ma facciamo, prova a fare una domanda. No, l'hai già fatta una domanda seria. Per stasera puoi andare, grazie Marci. No, quanti ciambellini all'incirca? Quanti chili? Ma insomma, dimmi te, insomma, fai in questo periodo. Ti dico tanti. Ora non sto a entrare nei numeri effettivi, però tanti. Praticamente tutti i giorni, da due settimane prima di Pasqua, si fanno i ciambellini in grosse quantità. Praticamente a fine lavoro uno fa il suo bello straordinario, si piazza lì, e per me ormai è un rito, perché ha i suoi tempi, i suoi odori, le sue battute, perché la vittima sacrificale di tutto questo via vai tram tram è la mia mamma, perché poi effettivamente io sono qui in rappresentanza, ma è lei la grande Maria che salutiamo. È lei la vera artefice. Io mi sono ritrovato mio malgrado a diventare un ciambellinaio, perché da quando ero piccolo che mi obbligavano a spolverare il ciambellino fatto su farina, finché poi la carta forno, ah, la più subentrata. Grande invenzione dopo la ruota dello scorso secolo. Vedi, Enzo, il ciambellino come momento di aggregazione sociale, tra l'altro, di riunione familiare. Tra l'altro io mi sono trovato davanti a una di queste scene che racconta Sandro, dove la mamma, appunto Maria, è lì, che poi dopo spiegherai qual è il movimento, anche se è difficile per radio, prepara l'impasto e poi fa questo movimento per cui crea il ciambellino. Tra l'altro io, forse sono l'unico, preferisco l'impasto prima d'essere cotto, mi piace troppo, mi piace tantissimo, che rispetto a quando è cotto. La ditata sul bravo, sul polentone, chiamiamolo così, effettivamente è un gran esatto. gesto. E poi si prende invece il piccolo, una parte dell'impasto, sì, viene spezzato con una spatola, arrotolato a modo, perché poi è un impasto molto appiccicoso, quindi io ho iniziato recentemente a cavarci qualcosa perché era una disgrazia. E praticamente con un dito si fora al centro del ciambellino e poi mentre lo si trasporta in teglia viene allargato e diventa rotondo e prende quella forma, sì. Lì, prende quella forma lì. E perché si dice che sia proprio il Foiano il paese d'origine del ciambellino? Perché ci vantiamo di questa ma cosa? Io non posso mettere la mano sul fuoco che Foiano sia il paese d'origine del ciambellino, però posso dire che attualmente è il paese leader. Oh, ecco, così mi piace, signore, signore. Tant'è che faremo anche un partito forza ciambellino, sei perché fuori. Rico Magno, sei fuori. Aspetta, non anticipare, perché appunto pare che ci sia una rivalità, ma dopo do un'anticipazione nel prossimo, dopo il prossimo brano. Non dire troppo perché abbiamo un interverrà un altro ospite, vero? Un collegamento telefonico. Però ecco, ti volevo chiedere, Sandro, prima parlavi di tempi, tu dicevi segui i tempi, i profumi del ciambellino. Che tempi ha di preparazione, di cottura? Di preparazione è praticamente circa una mezz'ora prima di essere lavorato, integliato, perché si sbattono le uova insieme allo zucchero in maniera che lo zucchero si sciolga, dopo vengono aggiunti gli altri ingredienti, ha impasto fatto, va sul banco e lì viene spezzato. Quindi questa operazione comporta circa una mezz'ora di tempo. Un'altra mezz'ora ci vuole per integliarli, specialmente ora che sono grosse quantità, e diciamo una ventina di minuti in cottura. Quindi ti potrei dire che in un'ora e mezzo si fa. Pensa che io ho già il langorino e ora ci apriamo i nostri ciambellini, apriamo la bottiglia di Vinsanto e buonanotte al sito. Ci giustiamo. Dying to call the evil is here. I see you grow older. Jonsi, questa è l'artista che abbiamo appena ascoltato, che è la voce e chitarra degli islandesi Sigur Rós. Qui l'abbiamo ascoltata in un brano, Go Do, tratto dal suo primo album da solista, un album che è uscito nel 2010. Dispiace che Marcello sia dovuto uscire un attimo, perché un commento su questo gruppo, sì, secondo me l'avrebbe solista, fatto. Non un gruppo. Non è un gruppo? È un solista? Scusate, esco anch'io? È meglio. Ma avevi detto che erano Insino, rimani con me. No, lei è voce chitarrista dei Sigur Rós. Avevo sentito voce chitarrista. Lui. Ambo. È uscito il 31, Simone? Esco anch'io. Lasciamo solo Simone. Sandro. Fai Sandro, tutto te, vai. A posto. Perfetto. Perché allora Enzino, ecco, mi dicono che abbiamo in collegamento un ospite tutto d'eccezione. Agata. Proprio. Perché cominciamo bene. Sento allora, mi dicono che abbiamo in collegamento il professor Mostaccioli, tuttologo, che è specializzato in ciambellini. Sì, Agata? Pronto? Sei il tu, Agata? Professor Mostaccioli, stia più vicino al telefono, alla cornetta. Non la sentiamo. Chi deve stare qui, professor Mostaccioli. Agata? Ma che sei Agata? Tu che chiami? Professore, buonasera, Piazza Alta. Buonasera, ma chi sei? Ci siamo sentiti prima, si ricorda, dovevamo parlare. Prima, erano 3 ore fa, io sto a Melbourne. Quindi da lei sono le? È presto. Lascia fare, è presto. Sera è tardi, ma per essere mattina è presto. Professor Mostaccioli, lei è uno dei più grandi esponenti a livello internazionale del ciambellino, o meglio, the Chamberlain. The big jammer. Yeah. Però professore, lei dovrebbe stare più vicino al telefono. Non la proprio qui. Che mi dorme accanto. Anco qui, guardi. Non la vorrei svegliare. Bene, grazie professore, perché sennò non la sentiamo. Che cosa ci può dire sul ciambellino? Ecco, le volevo solo dire, stia attento, perché qua in studio abbiamo un altro eminente esperto, Chi è? Don Nuts. Conosco. Gifts. Donati. Professore, buonasera. Buonasera, Santo. È un onore. È sempre un piacere sentirti. Vi conoscete già? Ci conosciamo, perché io in qualità di professore emerito storico ho ricevuto consigli preziosi. Immagino. Presumo che l'argomento di stasera vostro sia ciambellino. Siamo qui per questo. A quest'ora l'abbiamo, perché volete sapere qualcosa sul ciambellino. Lei è un tuttologo, ci dica tutto in allora, tre parole. Io l'unico contributo che mi sento di dare in questo momento alla vostra trasmissione è questa. Trovandomi io a Melbourne, sono qui a un convegno internazionale chiaramente sul ciambellino, perché la cosa più importante è ristabilire la verità storica. Ciambellino è un prodotto tipico di Foiano della Chiana. Ah, questo ci fa molto piacere. Provincia di Arezzo, non so da dove mi chiamate. Sì. Agata, lascia fare un attimo, amici. Agata. Sì, abbiamo capito, non si preoccupi. Okay. Allora, nasce a Foiano della Chiana, poi tutto il resto sono delle emerite mistificazioni. Ah, per male, no? Pensavo dicesse. Allora, io sto lavorando perché a Foiano della Chiana sia attribuito il giusto merito. Per i natali che ha dato al ciambellino. Ecco, questo ci onora, professore. Voglio fare un appello a tutti i puristi del ciambellino, perché la vera ricetta, quella semplice, quella contadina, quella di arte povera, è solo vostra. Grazie professore. A questo proposito, ecco, poi vorrei sfatare un altro mito. I paesi limitrofi che vantano immeritatamente dei diritti storicamente, è falso. Quali sono questi paesi? Faccia dei nomi, abbia il coraggio. Allora, so che uno dei più accaniti è Rigo Magno. Salutiamo gli amici di Rigo Magno. Ma anche se dopo 44 anni di sagra il vostro ciambellino non è quello regolare. È buono. Si sta rivolgendo agli abitanti di Rigo Magno. Però il ciambellino vero non me lo puoi arricchire con le mandorle, non me lo puoi arricchire con l'anice, non me lo puoi arricchire con lo zucchero a zoccoloni, a zollette. A zollette. Che dopo l'indice glicemico mi borda. Quindi sente il suo. Che... Ma voi parliamo di ricette contadine, figuriamoci se i contadini avevano a disposizione tutto questo zucchero, questo ben di Dio. In più, non so se l'amico Donati ve l'ha detto, in origine il burro e la margherina era sostituito, cioè il burro e margherita, sono stati margherita, eh? E il margherita hanno sostituito, vi prego, non la chiameremo più a quest'ora, fuso orario, c'ho jet lag, c'è anche Agata, c'ho, che... Agata, ti prego, dallo strutto di maiale. Sì, questo mi sembra che Sandro sì, detto, no, sì, quindi lei non ci dice. È arrivato tardi, quindi, professore. No, ma io... a me me l'ha insegnato il professore. Ah, beh, certo, ah, certo. Chiaro. Io sono qua giù anche perché pare che anche Fossombroni sì. abbia nelle sue memorie abbia fatto il, cioè, avete parlato dell'importanza dell'acqua pulita pura nell'impasto, nell'impasto del ciambellino? No, ma questo... professore, non c'è acqua. Ecco, Sandro. Te l'ho detto che sono in commissione sulla prossima gara che farete, e quindi ce la, ce la possiamo domenica. Mettere. No, ma scusi, professore, l'acqua è un po' dappertutto. Professore, no, voglio spezzare un'arancia a favore del professore, perché il l'arancia non è prevista, parte, non è un ingrediente del ciambellino. Il Fossombroni inzuppava nell'acqua il ciambellino, ecco perché nell'acqua del canale Maestro. Di, allora, sì. Io sono qui anche per proporre una prova ai fini, valida ai fini del Guinness dei primati, addirittura, interessante, per l'elaborazione del ciambellino più grande del mondo. Questo è bellissimo, ah, ma c'è qualche problema? Sì, mi dicono però che ci vorrebbe il forno più grande del mondo. Quindi ora stiamo un po' studiando. In altri tempi avrei proposto Pompei, ma pare che lì sia perfetto. No, ma io direi sì, fermiamoci su Pompei. Io sono a vostra disposizione. Sì, ma Agata, ti prego, la prossima settimana richiameremo sicuramente, perché lei non solo è il più esperto di ciambellini, ma è un po' esperto di tutto, è un tuttologo. Io, fatemi sapere 3 secondi prima qual è l'argomento della serata e due bischerate le trova. Chiaro. Grazie, perfetto, professor, grazie Mostaccioli. Professore, un saluto a Melbourne. I believe. No Twist, questo è un gruppo tedesco che proprio in questi giorni era in Italia, si sono esibiti nel nostro paese con 5 date e il titolo del brano è Kong. Da un chi? Disco nuovo nuovo. Sì, battuta chi? Kong. Kong. Chi? Kong. Siamo verso la fine. No sì. Twist. Ma shake. Marzi, sei tornato. Sì, io sono un po' sempre stato qui nello psicologicamente, sì, so la che tua presenza. È stata una cosa molto interessante, ma nella coda dell'intervento precedente ho anche sentito il fatto importante che si sta sfiorando un po' l'incidente diplomatico. Pare che in questa diatriba tra Foiano e paesi limitrofi che stanno vantando dei diritti sulla nascita del Ciambellino sia stata fatta anche un'interpellanza, un presentato intercomunale. No, siamo direttamente all'ONU, perché addirittura il Ciambellino pare che sia tutelato da normative sovranazionali, sovrannaturali, guarda, è patrimonio UNESCO praticamente. Esatto. Quindi ma facciamo vorrei dire due parole. Io vorrei allargare un po' l'orizzonte, so che a voi farà piacere viste le vostre abitudini alcoliche. Volevo sapere il Ciambellino, caro Sandro, dopo ha come alimento chiaramente, ma va, non va bene? Prego. Sì, lo vai. Possiamo coniugare, lo possiamo unire anche a dei liquori, dei vini? Ci vuoi dire qualche cosa a questo proposito? Ma come già detto prima, secondo me è eccezionale con il caffè. Poi vabbè, il caffè e il latte per la colazione, però se andiamo sui liquori credo che il vinsanto, quello che si fa col cantuccio insomma, sia forse l'alcolico più indicato. Mi confermi a proposito di cantuccio che i due impasti non c'entrano assolutamente niente? E qui si potrebbe fare un'altra puntata. Ah, vedi. Perché il cantuccio di Prato è un impasto totalmente diverso da quello del Ciambellino. Il cantuccio della Val di Chiana non è fatto altro che con l'impasto del Ciambellino al quale si aggiungono le mandorle e dopo diventa un cantuccio, quindi è più un biscotto con le mandorle che il vero cantuccio. Quante cose. Vedete, voi non pensavate di inzuppare. Lo chiamiamo anche morzapane noi, perché cantuccio l'abbiamo un attimino. Non so se noti il silenzio con cui ti ascoltiamo perché siamo rapiti, sì. Ma so che magari ci sono degli aneddoti. Tu prima, Sandro, ci raccontavi un po' come hai iniziato a fare i ciambellini. Sì. Io devo dire la verità, sono l'ultimo dei tre fratelli, ho una sorella e un fratello, e ho sempre desiderato un fratellino. Ho smesso di chiederlo alla mamma verso 10 anni, al che lei, come succedaneo, mi proponeva il fratellino di Ciambellino. Fatto con l'impasto. Sì, me lo mette una tegliettina e io me ne andavo via contento. Voi chiederete che fine ha fatto il Ciambellino, fratellino, io me lo sono mangiato. È il sogno anche della mia vita mangiare il fratello minore, ma questa è un'altra storia. Il tuo sarebbe indigesto. Sto scherzando. E sarebbe troppo soprattutto, ma sto scherzando. No. È dotato di Ciambellina anche lei. Anche lui. Comunque non è sempre stata gioia per me, Ciambellino. È stato anche un po' traumatico l'incontro col Ciambellino, perché come vi dicevo prima la mia mamma è quella che effettivamente pensa agli impasti, è quella che comunque sia è la colonna, certo, del nostro panificio. Io non mi ero mai preoccupato di fare ciambellini da inizio a fine da me, aiutavo lei quando l'impasto era pronto. Successe in un tragicomico episodio molto toscano secondo me, che la mia mamma durante una visita a otorino laringoiatrica svenne, ebbe un mancamento e lì ebbe proprio un'amnesia. Si risvegliò all'ospedale a Siena che non si ricordava niente. Il tutto poi si risolse, fu fatto un intervento, questa è una storia a parte. Il problema era che era durante una sagra al quale io fornisco 100 kg di ciambellini. Però, ogni anno, pensate, e io questi ciambellini dovevo fare, la mia mamma era all'ospedale e li hai fatti da solo. Come facciamo a fare questi ciambellini che io non l'ho mai fatti? Per telefono chiamo la mamma: Sandro, ma che è successo? Non mi ricordo niente, ma io guarda, sicuramente ho perso la memoria, non mi ricordo niente. Dico: mamma, facciamo una cosa al volo, tanto te una la sai a mente, dammi la ricetta dei ciambellini, vediamo se c'hai la memoria. E mentre lei me lo dettava, inconsapevole che c'era da farli perché si era dimenticata anche quello, con tutta tranquillità mi dette la ricetta, la dose e io mi feci i miei ciambellini. Beh, ma questa è una, quella era rimasta impressa nella e da memoria. Lì è proprio, ecco, è stato un muro contro muro, il famoso o bere o affogare. Io mi sono ritrovato a fare sti ciambellini. No, questo è un episodio importante, se mi permettete, perché non vorrei che questo fosse stato un complotto, cioè il furto della ricetta del ciambellino da parte delle terre senesi. Secondo me tentativo di... a tale riguardo bisognerebbe risentire il professore, credo che lui... Ma lo richiameremo la prossima settimana per fare questo. Approfondiremo. Siamo arrivati in fondo, concedetemi solo il tempo di salutare altri amici che ci stanno ascoltando: Maura, Rachele, Michele, Milva e ancora Chiara. E mi guardi, Marzi? Sì, volevo chiederti se volevamo anche lanciare questo appello per il nostro simbolo, per il logo. È vero, vedi che sembra il più frequentateci. Frequentate... Era attento, a noi era sfuggito. Frequentate il nostro la nostra pagina Piazzalta, perché durante la settimana posteremo dei loghi al vostro giudizio, delle proposte. Ciambellino. E quello che prenderà più gradimenti probabilmente lo sceglieremo. Potrebbe diventare poi no. Ma l'appuntamento logo importante, oltre a la prossima domenica, questa domenica. Alla Sagra del Ciambellino a Foiano, è per giovedì prossimo. Sì, per Piazzalta alle ore 22 su Radio F. Salutiamo e ringraziamo Sandro. Grazie amici, grazie. Un saluto a tutti. E in bocca al lupo per la gara, per la gara di domenica. Ti saluta e ti ringrazio anche Matteo per i ciambellini che non gli hai mai grazie dato. Grazie dei ciambellini che non hai portato. In compenso ho dato a tutti gli altri. Un saluto. Ciao a tutti, abbiamo finito e appunto appuntamento a giovedì prossimo e con Piazzalta. Domani in podcast. Ciao ciao. Buon ascolto su Radio F. Avete ascoltato Piazzalta, un programma di e con Sara, Marzi, Enzino e alla parte tecnica Simone. Une.